dolce così, con il sapore che ha questo volere a metà. Non ci impedisce di sognare gli sguardi tra noi, incrociamoli e poi gestisci bene che noi siamo fatti per volare. Stringi meglio, ti tengo piano piano, attacca bene se vuoi che ti porti sopra il mare. Guarda che qui il tramonto che fa è una luce a metà, ti riempie il fiato di calore. Se ne andrà ancora a puntare, tienilo su il bigliettino che poi tra due minuti è il tuo turno di giostrine sante. Tienilo su, ti spingo forte forte, attacca bene che vuoi, faremo un giro sopra il mare. Guarda che qui all'alba c'è già giù, puoi anche sputare. C'eravamo tanto tempo fa, e se ci pensi ci saremo ancora. Chi dovrebbe detto alla tua età, beato il santo che ti sopporta. C'eravamo tanto tempo fa, e ti giuro forte ci saremo ancora. Chi avrebbe detto alla mia età, sta povera santa che mi sopporta. C'eravamo tanto tempo fa, e ti giuro amore ci saremo ancora. C'eravamo tanto tempo fa, ti giuro forte ci saremo ancora.